Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e 9 minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: torneremo, come promesso, sui vitalizi, perché non c'è solo il caso della Lombardia, ma anche quello del Trentino e del Friuli Venezia Giulia. La resistenza, la lotta dura e senza paura dell'Assemblea regionale siciliana, che appunto non vuole i tagli ai maxi stipendi. Stiamo parlando, non ripeto, della regione Sicilia, il governo della Sicilia, ma del Parlamento della Sicilia, l'Assemblea regionale siciliana, che quindi non vuole abbassarsi gli stipendi come ha fatto invece la regione Sicilia. Dovremmo avere ospite il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Giovanni Ardizzone. Ancora, per quello che riguarda i temi, di nuovo l'Alitalia, perché insomma, come sempre con questa vicenda, si arriva all'ultimo miglio e tutto si blocca, perché adesso il governo e l'Alitalia stanno cercando di mediare per ricomporre la frattura tra i sindacati, perché a questo punto c'è un caos anche tra i sindacati, perché ieri la UIL non ha voluto firmare l'accordo nazionale del trasporto aereo, la CGIL però non vuole firmare l'accordo invece, la richiesta avanzata da Etihad per acquisire il 49% di Alitalia, e quindi ieri è stato firmato l'accordo separato sul contratto nazionale del trasporto aereo e sulla riduzione del costo del lavoro. Ieri invece il nuovo contratto e l'accordo sulla riduzione dei costi è stato firmato però solo da FIT, CISL, FILT, CGL, non la UILT e non l'UGL. Oggi il segretario generale dell'UGL Centrella deve incontrare il ministro delegato di Alitalia Del Torchio, e poi alle 18 incontrerà il ministro dei trasporti Maurizio Lupi, e cercheremo appunto di capire come si sviluppi una vicenda che si è ulteriormente intricata. E poi in conclusione invece il bollettino della Regione Sicilia, il bollettino della Banca d'Italia, non della Regione Sicilia. Perché? Perché è un bollettino che è, ahimè, in linea con quanto stiamo raccontando da settimane. Fu prima il Centro Studi Confindustria, poi abbiamo avuto il REF, insomma. L'appuntamento con la ripresa economica è rimandato, nel senso che la Banca d'Italia stima adesso, che siamo a metà anno, che quest'anno l'economia italiana non crescerà oltre lo 0,2%, più 0,2%, ma dice ci sono anche i rischi di un ribasso. Il REF, lo abbiamo avuto la settimana scorsa, individuava in sostanzialmente zero la crescita per quest'anno, tutti stimano un 1,2-1,3% di crescita nel 2015, però ricordo che è il terzo anno che l'appuntamento è rimandato con la crescita. Il governo ha ancora nelle sue stime un più 0,8 quest'anno, un più 1,3 l'anno prossimo. Confindustria stima un più 0,2 quest'anno, il REF lo 0, appunto oggi la Banca d'Italia più 0,2 con un'inflazione allo 0,4% quest'anno e lo 0,8 nel 2015. Qualcuno mi ha scritto: ma perché ce l'avete con l'inflazione bassa? No, non ce l'abbiamo con l'inflazione bassa, però attenzione che il rischio deflazione, cioè prezzi in calo, non è solo un rischio perché è dimostrato storicamente che se i prezzi sono in calo si rimandano gli acquisti perché si aspettano prezzi in calo, proprio una componente l'atteggiamento psicologico, ma anche e soprattutto perché per tutti i debitori questa è una brutta notizia. Siccome lo Stato italiano ha il debito più grande dell'Unione Europea, è chiaro che se tu devi 1000 euro e hai un'inflazione, poniamo, al 10%, l'anno dopo i tuoi 1000 euro in termini reali ti costano il 10% in meno, cioè in termini reali ne devi restituire 900. Ma se all'opposto, uso volutamente degli estremi, avessi una deflazione del 10%, vuol dire che dopo un anno il tuo debito in termini reali è di 1100 euro. Per cui ti va a costare di più. Ecco perché la deflazione spaventa tutti i debitori. Detto questo, le previsioni sono dello 0,4% quest'anno e dello 0,8% come crescita dei prezzi al consumo l'anno prossimo, quindi non deflazione ma inflazione quasi inesistente. La borsa come va? Bene oggi Ferragamo, più 5,46%, A2A più 3,80%, e ancora Tra l'altro Ferragamo segue tutto il settore del lusso e quindi ieri è arrivata una buona semestrale da Brunello Cucinelli. Devo dire che oggi il titolo Ferragamo è il migliore perché altri stanno ritracciando. A2A molto forte, più 3,70%, Banco Popolare più 3,35%, World Duty Free più 1,80%, come Saipem, Unicredit più 1,5%, Fiat più 1,20%, Telecom più 1,1%, Yux più 0,80%, perde Autogrill il 2%, e Finmeccanica meno 1,30%, come Cennac Industrial, Atlantia meno 1,20%, Unipolsai meno 1,20%, Prismian meno 1%. Euro a quota 1,35%, 349-238-6666 per i vostri sms e poi la pagina di Focus Economia su Facebook. Per quello che riguarda, c'è sempre chi dice che continuiamo a fare chiacchiere da bar, va bene, non le piacciono i temi relativi alla spesa delle regioni e ce ne faremo una ragione, cosa devo fare? Su questo abbiamo invitato il presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, chiameremo anche la Camusso se questa è la sua richiesta, vorrei capire prima come si conclude la vicenda. Altro che la vicenda, mi riferisco all'Italia. Detto questo, invece, andiamo sull'economia internazionale, perché il superindice economico americano è salito meno delle attese, a luglio più 0,3%, e anche la fiducia dei consumatori americani a luglio è calata ed è andata sotto le attese. E poi è arrivata una dichiarazione del numero uno del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde. Allora, era da quanti mesi è che non rispolveriamo il nostro gufo, che era un po' in soffitta, adesso è tutto sudato, un gufo accaldato, però... Allora, perché vorrei dare il gufo alla Christine Lagarde oggi? Perché io capisco tutto, ma il Fondo Monetario deve anche fornirci degli strumenti e delle risposte, non solo delle analisi ogni tanto tardive. Nell'area euro, se la politica non agisce, il rischio maggiore è il circolo vizioso tra elevata disoccupazione e alto debito pubblico. Va bene? E quindi... pressioni ancora più forti sui paesi dell'area euro, fate un'azione veramente forte, perché nel passato il Fondo Monetario invece era abbastanza d'accordo su alcune ristrutturazioni. Comunque, dice Christine Lagarde, se la crescita economica resta bassa sarà difficile affrontare l'eredità della crisi, alta disoccupazione e alto debito pubblico, circolo vizioso, siamo d'accordo. E poi ha continuato, probabilmente i mercati sono un po' troppo ottimisti sulle prospettive dell'economia europea. Ora, di tutto abbiamo bisogno in questo momento, anche che di mercati che iniziano anche a andare pesantemente in negativo. Quindi, Christine Lagarde, o lei ci dice che avete cambiato le prospettive, che cosa farete come Fondo Monetario Internazionale per fare in modo che l'Europa e nell'area euro si esca da questo circolo vizioso, o dire che probabilmente i mercati sono un po' troppo ottimisti sulle prospettive dell'economia europea. A me questo sì sembra un discorso da bar, e per scongiurarlo il nostro gufo con gli occhiali e la crema abbronzante, eccolo qua, vai. Finale che deve sentire bene la Lagarde. Allora, intanto in Italia lo spread tra il BTP e il Bund è fermo a 160, siamo a 163 punti per la precisione, i BTP a 10 anni rendono il 2,78%, dicevamo della Banca d'Italia, ma dedicheremo al bollettino della Banca d'Italia tutta la seconda ora del programma, anche perché i rischi della crescita possono arrivare da tensioni geopolitiche internazionali e parlarne in queste ore è quasi pleonastico. Il miglioramento delle condizioni del credito è ancora marginale e incerto, lo dice la Banca d'Italia rivolgendosi alle banche che vigila, immagino. I sondaggi più recenti indicano un'attenuazione delle difficoltà di accesso ai finanziamenti bancari, quindi si attenuano le difficoltà di accesso ai finanziamenti bancari, ma i prestiti dal settore privato continuano però a ridursi. E poi stima la Banca d'Italia che un impulso dal bonus di 80 euro sui consumi si potrebbe avere solo nella seconda metà dell'anno. Beh, già ci siamo. La Confcommercio invece, commentando l'andamento dei saldi, dice che l'effetto bonus è molto debole e c'è un modestissimo miglioramento, più 0,78% rispetto ai saldi del 2013. Lo scontrino medio è di 90, dai 92 euro del 2013 passa a 98 euro nel 2014. Garanzia giovani. Allora, attenzione, perché sono 130.000 i ragazzi che si sono già registrati al progetto Garanzia Giovani, questo al 17 luglio, di cui 17.600 sono già stati convocati dai servizi per il lavoro e 7.000 hanno già avuto il primo colloquio di orientamento. Lo ha segnalato il Ministero del Lavoro, che ha anche ricordato come le occasioni di lavoro siano 4.700, i posti disponibili pari a 7.000. È chiaro che c'è una grossa differenza tra il numero di giovani che si sono iscritti e i posti offerti. Invito anche le imprese che ancora non stanno sfruttando questa opportunità offerta obiettivamente dal Ministero di registrarsi, perché va a incrociare domanda e offerta. Comunque il fatto che 130.000 ragazzi si siano già iscritti e che 7.000 posti di lavoro siano disponibili in questi giorni, con questi chiari di luna, non è poca cosa. Mentre per quello che riguarda la cassa integrazione in deroga alla mobilità, il governo si è impegnato, l'ha detto oggi il Ministero del Lavoro, ad aumentare la dotazione per cassa integrazione e mobilità di almeno 800 milioni di euro. La vicenda della AST di Terni: circa 500 persone si sono radunate questa mattina davanti allo stabilimento per partecipare alla mobilitazione promossa dai sindacati. Uno striscione con scritto "noi non ci stiamo". La multinazionale tedesca ThyssenKrupp sostanzialmente ha annunciato infatti ieri 550 esuberi nello stabilimento di Terni, oltre alla decurtazione del 10% degli stipendi. È saltato l'incontro con ThyssenKrupp previsto per il prossimo lunedì e non è stato ancora fissato un nuovo incontro. La Guardia di Finanza oggi ha beccato un imprenditore che in provincia di Torino, un imprenditore dell'edilizia a Villarbasse, ha 40 anni, non ha fatto mai una dichiarazione fiscale negli anni 2008-2012. Secondo l'accusa non ha neanche versato l'IVA per 1.200.000 euro, gli viene contestata un'evasione di 10 milioni di euro, questo dopo un'operazione della Guardia di Finanza di Torino, appunto. E adesso iniziamo a parlare da un lato dei vitalizi. Sono due cose diverse, dei vitalizi perché sono tutti legali, ma a mio avviso scandalosi dal punto di vista del giudizio etico e sociale, si può usare questa parola che si può dare. E poi parliamo invece degli stipendi dei dirigenti del Parlamento siciliano, non della Regione Sicilia, ripeto che il governo della Regione, la Regione Sicilia come regione autonoma, ha infatti anche un suo Parlamento, l'Assemblea Regionale Siciliana, che è una cosa. E poi c'è il governo, che è quello presieduto da Rosario Crocetta. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Anche oggi invitiamo chi produce il Malox a darci qualche royalties, perché immagino che gli ascoltatori ne utilizzeranno un po' da questo momento in poi. Allora, calma e gesso. Abbiamo parlato due giorni fa, se non ricordo male, della Regione Lombardia, dove c'è la corsa di alcuni ex consiglieri, alcuni dei quali anche condannati, per chiedere e ottenere contributi versati per il futuro vitalizio, tutto secondo la legge. E quindi appunto Nicole Minetti ha chiesto e ottenuto 80.000 euro, Chiara Cremonesi identica cifra, Massimo Ponzoni condannato a 10 anni di carcere ha ottenuto 144.000 euro, Renzo Bossi 55.000 euro. Domenico Zambetti, accusato di aver ricevuto voti dell'Ndrangheta, si è ripreso i 75.380 euro versati. E ogni anno il Pirellone spende 620.000 euro per i vitalizi. Ma non c'è solo la Lombardia, andiamo in Trentino Alto Adige. Devo dire grazie agli ascoltatori che ce l'hanno segnalata in questi giorni. Allora, nel febbraio scorso il presidente del Consiglio regionale del Trentino, Diego Moltrer, ha reso note le cifre maturate dei consiglieri regionali, sia quelli in carica sia gli ex consiglieri, che hanno ottenuto il requisito contributivo per la riscossione dell'assegno di vitalizio. In tutto oltre 50 milioni di euro. Ora dico, il vitalizio già non doveva esserci, perché uno fa politica, giusto che abbia uno stipendio, che abbia rimborso le spese. Il vitalizio non esiste, nel senso che la politica la fai perché viene eletto, come missione dovrebbe essere, non è un lavoro in senso stretto. Però già questa battaglia l'abbiamo persa parzialmente, ma andiamo avanti. 50 milioni di euro il Trentino spende per il vitalizio. Alcuni consiglieri hanno maturato un vitalizio che supera il milione di euro. Ora, è tutto legale, ma dovete dirmi se è tutto accettabile. E a giugno scorso, in seguito alle polemiche, mica da soli, vedete che poi le polemiche servono a chi dice perché continua a parlarne, perché ogni tanto servono, hanno varato in Trentino una riforma dei vitalizi. Quindi i consiglieri regionali del Trentino Alto Adige continueranno a conservare il vitalizio, ma non con i tagli annunciati. Si era partiti dal 70%, però sapete com'è, no? C'è la crisi, la vita costa, l'inflazione è vero che non c'è, però dal 70% sono arrivati a una riduzione media del 28%. Apprezziamo lo sforzo. Decisa anche la revisione dell'età pensionabile, i consiglieri con 4 legislature potranno scegliere di andare in pensione anticipata a 60 anni con una decurtazione del 10%, quelli con 3 legislature sempre a 60 anni ma con un taglio del 12%. Per i consiglieri che hanno già incassato l'anticipo è prevista la restituzione della quota ricalcolata sulla base dei parametri regionali, almeno questo. Il Movimento 5 Stelle ha depositato istanza di ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale contro i vitalizi dei consiglieri regionali, ricorso che è stato respinto. Friuli Venezia Giulia. Allora, nel giugno 2013 una decina di consiglieri della passata legislatura aveva chiesto alla Regione di la restituzione delle trattenute operate sulle proprie indennità. Quindi la quota a carico degli eletti per maturare la pensione a partire dai 60 anni. Tra questi ci sono tutte cose che noi normali cittadini non possiamo fare, sia ben chiaro. Tra questi ci sono l'ex presidente Maurizio Franz e Roberto Asquini, che con 3 legislature alle spalle avrebbero dovuto riavere 360.000 euro a testa, la cifra spettante a tutti quelli che al giugno del 2013 avevano chiesto la restituzione dei contributi, raggiunge i 2 milioni di euro. Nel luglio del 2013 il consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia cancella l'istituto del vitalizio, quindi gli attuali consiglieri non ce l'hanno più. Al contrario, però, l'assegno vitalizio viene dato a quelli della legislatura precedente. Nel giugno del 2014 la regione ha pubblicato i 213 nomi di ex consiglieri regionali o anche dei loro eredi, perché il vitalizio va anche agli eredi, che incassano appunto vitalizio. Gli importi variano a seconda del numero di anni di mandato in consiglio regionale. Si va da un minimo di 614 euro mensili a un massimo di 6.437 euro mensili. E il costo annuale dei vitalizi che paga il Consiglio regionale friulano è di 9 milioni di euro. Allora, c'è qualcuno che dice sto già male. Un attimo, adesso arriviamo alla parte più bella forse, perché vorrei parlare della Sicilia, ma in questo caso non parliamo di vitalizi, parliamo degli stipendi, non del governo della regione siciliana, ma dell'Assemblea regionale siciliana. Tra poco avremo in collegamento anche il presidente dell'Assemblea regionale siciliana. Prima però fatemi dare qualche cifra e diamola. Allora so già qualcuno dirà populismo, no, facciamo che il populismo lo raccontiamo con i dati Istat, che l'Istat dice che in Sicilia ci sono 661.000 famiglie, pari al 32%, 6 volte in più che in altre regioni, che vivono sotto la soglia della povertà e poi ce ne sono 180.000 che vivono in condizioni di povertà estrema. La disoccupazione reale è al 32,8%, ciò nonostante lotta dura senza paura dell'Assemblea regionale siciliana, che non vuole piegarsi all'invito di Renzi a applicare anche per il parlamentino siciliano i tagli per gli stipendi più alti, perché se da un lato il governo di Rosario Crocetta ha ridotto gli stipendi dei dirigenti, non stiamo parlando delle cariche elettive, dirigenti, un tetto a 160.000 euro, che sono comunque 13 volte in più il reddito medio dei siciliani, che è per inciso di 12.700 euro, ma il governatore ci ha provato con l'Assemblea regionale, col Parlamento, dicendo anche i vostri dirigenti devono avere un tetto simile a quello che abbiamo messo nei dirigenti del governo della Sicilia. Ma che basta col populismo, ha spiegato il presidente dell'Assemblea regionale siciliana Giovanni Ardizzone. Ho già ridotto il bilancio da 162 a 149 milioni di euro. Faccio notare che 149 milioni di euro di bilancio sono il doppio della regione Lombardia, il triplo del Veneto, il quintuplo dell'Emilia Romagna. E ho previsto una riduzione delle spese per il personale del 10% in 3 anni. Vabbè, apprezziamo lo sforzo. Il tetto è rimasto a 240.000 euro lordi. Questo palazzo non si fa condizionare da un populismo che nel tempo, vedrete, si scontrerà con i giudizi scontati della Corte Costituzionale e dei giudici del lavoro. Così il presidente dell'Assemblea regionale. Sarebbe stato facile per noi venire incontro alle pressioni della piazza e introdurre un tetto magari anche inferiore ai 160.000 euro. Ma come segnava De Gasperi, cosa c'entra De Gasperi? Una cosa è guardare la prossima campagna elettorale, una cosa è pensare alle future generazioni. Le future generazioni vostre. Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Giovanni Ardizzone, buonasera. Buonasera a lei, vedo che lei mi faccia fare la domanda. Lei fa la domanda, ma lei ha letto il pezzo di Gian Antonio Stella, che fa un pezzo su un'intervista presa a Spezzoni rilasciata al giornale. Vabbè, di Sicilia. Quindi, ha detto un'esattezza, no, lei mi deve fare parlare. Certo che la faccio parlare, mi do apposta. Un'inesattezza che è fondamentale, che noi non ci siamo voluti adeguare al decreto Renzi, questa è una falsità. Chiaramente che non nasce da lei, ma che è stata messa in moto, in circuito. Noi ci siamo adeguati al decreto Renzi, abbiamo fatto di più, perché il decreto Renzi prevede per la prima volta un tetto di 240.000 euro, fatti salvi gli organi di rilevanza costituzionale, quindi lascia fuori il Senato, la Camera dei Deputati, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Presidenza della Repubblica e la Corte Costituzionale. Noi avremmo potuto prevedere un tetto superiore a 240, cosa che ancora giocano al Parlamento Nazionale, al Senato e alla Camera. Noi abbiamo limitato ai 240, che è il tetto massimo introdotto per la prima volta dal governo Renzi, quindi ci siamo adeguati pur potendo prevedere un tetto superiore. Il dato fondamentale è che abbiamo ridotto gli stipendi noi, non altri, neanche il governo regionale, di oltre il 50%. Questo l'abbiamo fatto. Okay. Purtroppo i giornali del nord, mi dispiace, con la complicità di qualche giornale del sud, debbono continuare a sparlare della classe dirigente siciliana. Di questo si tratta. Allora, come altro vede... dato, no, lei ha letto un dato che è fondamentale. Lei, che noi, no, perché lei mi deve dare la possibilità. Ma io volevo farle anche una domanda, però va bene. Lei ha dato già le risposte, perché ha letto quel pezzo completamente inconducente e fuori luogo di Gian Antonio Stella, perché c'è un altro dato infondato, che il Parlamento costa, a differenza degli altri, molto di più quello della Lombardia, del Friuli, del Molise e di quant'altro. Non è vero. Le faccio presente che quando va in pensione un dipendente del Consiglio regionale della Lombardia, quei costi se li carica lo Stato, l'INPDAP. Quando va in pensione un dipendente dell'Assemblea regionale siciliana, le pensioni, quei costi se ne fa carico l'Assemblea regionale siciliana. Di questo si tratta. Se lei mi toglie 60 milioni di euro, siamo al di sotto del costo dei consigli regionali del nord d'Italia e del resto d'Italia. Allora, questo è il dato stato fondamentale. Oh, adesso, il signor Gian Antonio Stella. Sì, ho capito, ma chiami Stella, io non posso, non possiamo parlare di chi non c'è. Allora, no, adesso lei ha detto no. No, io, siccome lei ha fatto una trasmissione su Stella, io ho fatto la trasmissione su di voi. Allora, attimo, presidente, però mi deve far parlare perché sennò non ci capiamo. Se parliamo sopra, no, mi scusi lei. Mi scusi lei. Fa un pezzo ci dà. Ma adesso lei risponde alle domande che le voglio fare. L'abbiamo invitata, come vede, non l'abbiamo invitata. Un'apertura con l'articolo. Ma io faccio l'apertura che voglio, abbia pazienza. Lei risponde alle domande se vuole. E non ho capito, devo fare l'apertura che vuole lei. Ma si figuri. Presidente, risponda alle domande se vuole. Noi l'abbiamo invitata, ha lo spazio che vuole, glielo stiamo dando, è una radio nazionale. Nord-sud non c'entra una mazza. Allora, come mi dica, non c'entra? Nord-sud non c'entra una mazza. Abbiamo appena fatto, raccontato i vitalizi del Trentino Alto Adige, del Friuli, della Lombardia. Allora, che domanda. Allora, è vero, visto che lei lo confutava, che lei ha detto sarebbe stato facile per noi venire incontro alle pressioni, abbassare il tetto, ma come insegnava De Gasperi, dovevamo pensare alle future generazioni, sì o no? Se lei decontestualizza quella frase, sì o no. No, io non le rispondo con un va sì bene, o no. Okay. Io ho detto quella frase con riferimento alla riduzione degli stipendi, finta, operata, da un'altra istituzione regionale, perché quello che non ha scritto Gian Antonio Stella, al quale lei fa riferimento, mi dispiace che lei non lo vuole chiamare, è che il tetto degli esterni è 250. Va bene. Quindi, ma lei la frase, è il dato. Però quindi, è vero che ha detto, ma non ho capito cosa c'entrano le future generazioni, era una mia curiosità, cosa c'entra le future generazioni, glielo spiego subito. Mi dica. Il decreto Renzi che lei ha richiamato impropriamente, perché noi abbiamo applicato il decreto Renzi, fa salvi i diritti quesiti. Se io mettevo una riduzione al di sotto di 240, io la riduzione l'ho fatta, io ho portato stipendi da 500 a 240, cosa che non ha fatto il Parlamento. Ho capito, ma voglio capire cosa c'entra nel futuro. Io incontro a ricorsi, per cui io in questo momento avevo il suo applauso e dell'opinione pubblica, fra 10 anni avrebbero pagato le future generazioni. Okay. Seconda domanda che vorrei farlo, le risulta che vi siano dei dirigenti dell'Assemblea regionale che lei presiede, perlomeno 13 che guadagnano più del capo dello Stato, dai 280, mi faccia fare la domanda, dai 280 ai 330 mila euro sono, tra l'altro c'è anche un signore che si chiama Sebastiano Di Bella che da questo punto di vista andrà, è segretario generale, se non ricordo male, ha una busta paga di 650 mila euro l'anno. Allora, quest'ultimo dato non mi risulta. Ok, i primi? Quindi ne risponde lei, chi è che l'ha scritto? Siamo qua apposta, guardi, che è ovvio che ne rispondo, rispondo di tutto quello che dico, non ho bisogno di minacce. Presidente? No, quale minaccia? No, ne rispondo sempre, di tutto quello che dico rispondo, da quando sono in onda, 14 anni, rispondo di quello che dico. Allora, quest'ultimo dato non mi risulta. Il primo invece? Le posso dire che ci sono stipendi molto alti. No, questo l'avevamo capito da soli. Voglio sapere se ci sono 13 dirigenti nell'Assemblea regionale siciliana che guadagnano più del capo dello Stato. Mi dica sì o no. No, non ci sono. Non ci sono. Lei si prende la responsabilità di quello che sta dicendo. Per concludere. Sì. Piacere, Luigi delle Bicocche. Sotto il sole faccio il muratore, mi spacco le nocche. Sono un eroe, perché lotto tutte le ore. Sono un eroe, perché combatto per la pensione. Sono un eroe, perché proteggo i miei cari. Mani dei sicari, dei cravattari, sono un eroe, perché sopravvivo al mestiere, sono un eroe, straordinario tutte le sere, sono un eroe, e te lo faccio vedere, ti mostrerò cosa so fare con il mio superpotere, sono un eroe. 17:41 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, siamo in collegamento col presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Giovanni Ardizzone. Allora, presidente, le chiedevo prima, i 13 dirigenti ci sono, le risulta che ci siano 80 dirigenti sopra i 200.000? Non ho capito, che cosa ha detto lei? I 13 dirigenti che guadagnano più del capo dello Stato le risultano quelli, giusto? No, più del capo, io non so quanto guadagna il capo dello Stato, lei sa quanto guadagna il capo. Dai 280 ai 330 mila euro l'anno, le risulta? Io le posso dire una cosa, quello che ha fatto l'Assemblea, dal primo agosto 2014, questa Assemblea presieduta dal sottoscritto ha portato tutti questi tetti al di sotto di 240, quindi che in passato c'era questa vergogna, c'era questa vergogna, e sono il primo a dire che è una vergogna, devo essere più chiaro, questa Assemblea, questo Presidente, questa nuova classe dirigente, rendendosi conto che era una vergogna, prima che lo facesse il Parlamento nazionale sganciandosi dal Senato, ha portato questi stipendi al di sotto fatto di questi livelli vergognosi. Devo essere più chiaro così. Sì, secondo me anche. No, no, va bene, ma quello ci sta. Anche 240.000 secondo me sono vergognosi, ma qui sono possiamo... moltissimi. Allora, 240, guardi, sono obiettivamente. Ma poi molti. In Sicilia, voglio dire, perché dove c'è una condizione. Tutti, sono molti anche in Alto Adige, ci mancherebbe, infatti l'abbiamo appena ricordato. Senta, chiaro, mi dica una cosa, Presidente, le risulta che tra i 226 dipendenti dell'Assemblea regionale siciliana vi siano 10 stenografi parlamentari, 18 segretari parlamentari, 54 coadiutori parlamentari, 12 tecnici amministrativi, 92 assistenti parlamentari? Cioè, voglio dire, sono tutti necessari, perché io capisco il tetto ai dirigenti, che è importantissimo, ed è troppo alto quello che avete scelto, i 240.000. Però è anche il costo dell'assemblea regionale. Ma dico, ho capito, ma anche il costo, voglio dire, l'assistente dell'assemblea regionale siciliana è pagato 2.900 euro netti al mese. In agosto 2014 si ridurrà tutto. Noi ci siamo ritrovati con questa situazione vergognosa dal 1 agosto 2014. A differenza, mi scusi, so che non c'è il buon Gian Antonio Stella. Sì, ma chiamate, parlatevi, insomma, lo quereli. Ho mandato un'email a Gian Antonio Stella dicendo che volevo un confronto pubblico con un conduttore che avrebbe scelto lui e gradito lui. Però io questo vengo io se vuole. No, ma io me lo faccio con piacere. Vabbè. Con dati alla mano. Mi dica una cosa, mi scusi, se io le dico che se io tolgo le pensioni, questa è un'assemblea che dal 1947 rispetto alle regioni. Sì, infatti l'errore secondo me fu dare le regioni autonome, ma questo è un altro paio di maniche. Ma vabbè. Io sono per la specialità dello statuto. A maggior ragione che è uscita una sentenza della Corte Costituzionale adesso, mi scusi, questo mi deve consentire di dirlo. Ecco. Che riconosce che l'IVA deve rimanere nelle casse della regione siciliana, perché il problema uno è tutti ci riempiamo la bocca che la regione è spregona, quando noi paghiamo le tasse non è vero che le tasse rimangono in Sicilia, se le prende lo Stato. Io questo mi trovo più d'accordo con Salvini che con altro, chiaramente non nel difendere una classe dirigente che è indifendibile, sia chiaro su questo, no? Però mi scusi, nel momento in cui noi abbiamo fatto le riduzioni, ci siamo sganciati dal riduzioni... Senato, veniamo ancora contestati da Senato. No, guardi, Presidente, allora glielo dico con molta tranquillità, le riduzioni che avete fatto io non le sto contestando, dico semplicemente che tagliare del 10% in 3 anni è troppo poco. Però mi deve far parlare, perché sennò non siamo all'Assemblea Regionale Siciliana, siamo a Focus Economia, Radio 24, si parla uno per volta. Allora sto dicendo che 240.000... No, non ho capito l'espressione non siamo, che ha detto lei? Non siamo all'Assemblea, stiamo in radio. Allora, 240.000 euro lordi come tetto per un dirigente dell'Assemblea Regionale Siciliana sono tantissimi ancora. Detto questo, faccio notare che in Veneto sono 180.000, in Friuli Venezia Giulia sono 160.000, in Lombardia 230.000, regioni che hanno un bilancio anche diverso dal vostro. Ma vorrei capire un'altra cosa. Si può fare un'operazione oltre che sul tetto dei dirigenti, che a mio avviso è del tutto incompleta e imparziale, anche sul resto dei dipendenti? Perché mi fa fare la domanda, però oltre che ai 10 stenografi parlamentari c'è internet, sono i registratori, oltre ai tecnici amministrativi 12, ai 92 assistenti parlamentari. A noi risulta che attualmente un assistente che lavora all'Assemblea Regionale Siciliana è pagato 2.900 euro netti al mese per 15 mensilità, e uno stenografo è pagato 3.700 euro netti al mese e può arrivare a 6.000 euro netti. Un consigliere guadagna fino a 8.000 euro netti al mese. Secondo me, con un paese in crisi, in ginocchio, col 32% di disoccupazione in Sicilia, ma mi deve fare la domanda, però, e questa è la domanda, si può ridurre gli stipendi anche, allora, e l'organico di questo? Allora, no, posso dire una cosa, non si può, deve ridurre, ed è questo l'impegno che ci siamo preso. Purtroppo questo messaggio non passa all'esterno. È in diretta al venerdì su Radio 24, lo può far passare adesso, ci mancherebbe. No, e difatti io perché ho detto di rispondere in una trasmissione a livello nazionale? Però guardi che anche con l'Assemblea Regionale Siciliana si risponde con civiltà, quindi non questo. No, ho detto solo che lei stava parlando e non mi faceva fare domande, questa è un'intervista, non è un... Allora, facciamo così, ci rivediamo? Dicendo che non solo si può, ma si deve ridurre, ed è quello che noi stiamo facendo. Le posso dire una cosa, però ripeto, sull'articolo di oggi fuorviante... Ma non è oggi, guardi, è un anno che ne parliamo. Prego. Riporta un'ansia, quell'ansia è stata smentita, riporta un'ansia che noi avremmo fatto entrare in vigore successivamente la norma, quell'ansia è stata smentita. Mm. purtroppo giornalisti che spesso sono molto attenti hanno dimenticato che c'è una smentita. Ok, però adesso quando ci facciamo una cosa, cortesia, sì, se lei rintraccia Gian Antonio Stella, sarò in un il cellulare, ce l'ho il cellulare di Stella, glielo do, vi parlate. No, io gli ho mandato un'email, no, però capito, voglio un conduttore gradito a Stella. Se lei è gradito a Stella, io sono più felice. Adesso chiederò a Stella se sono gradito a Stella. Senta, mi dica un'ultima cosa invece. Quando è che ci risentiamo io e lei, così lei mi annuncia queste riduzioni sul personale, sugli stenografi e sul loro stipendio? Quando è che ci risentiamo? Diamoci un appuntamento. Dal primo agosto, guardi che ci sarà già la riduzione, a differenza di tutto quello che si pensa e si dice, l'unico consiglio regionale, noi siamo un'assemblea, siamo Parlamento, ma l'unico consiglio regionale che ha ridotto seriamente le spese è stato quello dell'Assemblea regionale siciliana. Che prendi fazzoletti, mi sto muovendo. Senta, ma no, perché ha risposto a Crocetta? Perché ha risposto a Crocetta che non ci stava quando Crocetta le ha detto fate come abbiamo fatto noi nel governo siciliano e portate il tetto a, adesso devo riprendere la cifra, a 100? Perché non è assolutamente vero. Cosa? Abbiamo avuto Crocetta ospite 2 settimane fa, diceva la stessa cosa. Ma le posso dire una cosa? Perché non è vero. No, è vero quello che ha detto Crocetta. Non è vero che è stato ridotto lo stipendio. Perché i dirigenti esterni del governo regionale continuano a percepire 250.000 euro. Questo non lo dico io, l'ha detto la Corte dei Conti 10 giorni fa. Vabbè. Quindi diciamo, siccome nemmeno... Ma per carità, adesso andremo a verificare anche questo. Quindi ci risentiamo il 1° agosto. E lei mi annuncia il le riduzioni. Il 1° agosto non andremo in ferie, sono a sua completa disposizione. Mi fa una cortesia. Io il 1° agosto sono anche in diretta, è venerdì se non ricordo male. Però insieme a Stella, altrimenti guardi non c'è il gusto. La chiamo anche insieme a Stella. Però insieme voglio... a Stella, no, di De Viso, non va bene? De Viso, venga qui, cosa devo fare? Portare la radio in Sicilia? Ma tanto, guardi che tra l'altro noi verremo in Sicilia a settembre-ottobre con il nostro viaggio nel sud. Guardi, mi fa una cosa gradita. Perché mi fa una cosa gradita? Le faccio visitare il palazzo, le faccio vedere che non è un consiglio regionale, è un palazzo che risale al 1100 e anche prima, il costo di manutenzione di 7 milioni. Ma infatti dovreste cambiare palazzo, andate in un palazzo più normale, quello viene affittato, restaurato, diventa un'altra cosa, un albergo. No, guardi, questo è offensivo quello che sta dicendo. Ma vi costa 7 milioni l'anno? È offensivo cambiare? No, non ci costa 7 milioni, ma mi scusi. Non ho capito, vi costa o non vi costa? No, mi scusi, è la manutenzione, è un palazzo storico, ospitiamo la Cappella Palatina. Ma infatti è bellissimo, io conosco Palermo molto bene, è un bellissimo palazzo. No, non conosco. Lei mi dice che noi dovremmo affittare la Cappella Palatina, mi scusi. No, ho detto semplicemente che se l'Assemblea Regionale Siciliana, se costa tanto di manutenzione, forse è il caso di spostarsi. Comunque la manutenzione ci sarebbe per quel palazzo. Sì, ma magari lo trasformiamo in qualche altra cosa. Non è un costo per la politica. Le posso dire che l'Assemblea, attraverso la Fondazione Federico II, gestisce pure la Cappella Palatina, quindi il flusso turistico. Ed è uno. Sono stato a 2 matrimoni alla Cappella, non i miei, alla Cappella Palatina. Conosco benissimo quel luogo. Adesso non vorrei entrare nel privato. Dico semplicemente, ma perché state in un palazzo del 1100? Ma carico noi di quel costo. No, ce ne facciamo carico noi, non lei. Noi che paghiamo le tasse. Presidente, abbia pazienza. Ci sentiamo il 1° agosto quando mi viene annunciato. A condizione che ci sia Stella. Va bene, le auguro buon lavoro. Grazie. Buonasera. Ma dove possiamo fare? E non facciamo, perché in buona sostanza purtroppo non è la natura, ma l'uomo. Dov'è? È nella terza e più grave di queste piaghe, che veramente diffama la Sicilia e in particolare Palermo agli occhi del mondo. Lei ha già capito, è inutile che io gliela dica, mi vergogno a dirlo. È il traffico, troppe macchine. È un traffico tentacolare, vorticoso, che ci impedisce di vivere e ci vanno nemici, famiglia contro famiglia. Allora, il 1° agosto, non vi scaldate, riavremo ospite Giovanni Ardizzone, presidente della Regione Sicilia. Adesso chiamerò Gian Antonio Stella, che è già venuto nostro ospite, come Sergio Rizzo, vabbè. Ci servirà lui come garante, va bene. Comunque è importante, invece, è importante sentire anche, dare la voce anche, appunto, e capire gli sforzi che sta facendo la Regione Sicilia. Invece, che sforzi stanno facendo i sindacati per chiudere l'accordo con Alitalia? Ancora non l'ho capito. Professor Gregorio Aleggi, buonasera. Buonasera. Mi scusi, ma ci siamo un po' allungati con la Regione Sicilia. Detto questo, lei ha capito quanto si è ingarbugliata la vicenda dopo quello che è successo ieri, cioè la UIL che non firma il contratto nazionale? Non solo, la UIL oggi ha mandato una lettera all'Alitalia dicendo: non osate applicare quello che avete concordato con gli altri, ma non con noi e con i non iscritti ad alcun sindacato. Quindi, diciamo, sembra un po' una prova di forza. E quindi, secondo lei, a questo punto si arriverà all'accordo, diciamo, senza CGIL per quello che riguarda Etihad e a livello nazionale senza la UIL? Cioè, come si può trovare una quadratura del cerchio? È difficile immaginarlo, anche perché appunto sono due livelli che finiscono per coincidere solo perché in Alfaerio ormai c'è solo l'Italia, quindi il contratto nazionale attualmente riguarda un'unica compagnia, e questo è il paradosso. Quindi questo spiega le formazioni, diciamo, diverse. Va bene a qualcuno l'accordo nazionale come riferimento complessivo, e a qualcun altro non va bene quello specifico, diciamo, aziendale. Questo ingarbuglia la matassa, solo CISL, diciamo, approva tutti e due. E poi, come dicevamo ieri, c'è il problema delle varie professionalità, quindi il fatto che i naviganti si sentano schiacciati dai, diciamo, lavoratori di terra, che sono la grandissima maggioranza, anche se certo, meno specializzati. Lei però, di lavoro già chiesto, però sono usciti anche dettagli nel frattempo del piano offerto da Etihad, quindi da Abu Dhabi. Lei è convinto che, ammettiamo che l'accordo si firmi come prevedono entro fine mese, servirà veramente, dopo che lei ha letto il piano, a rilanciare l'Italia? È l'ultima spiaggia, diciamo? Beh, se i dati economici sono quelli che ha anticipato, che ha rivelato su Sole 24 Ore l'ottimo Gianni Dragoni, non mi pare che ci siano grandissime alternative. Si parlava di capitale netto negativo, e quindi o qualcuno di italiano a quel punto ci mette i soldi, tanti, oppure all'orizzonte c'è soltanto questo investitore straniero, non ce ne sono altri. E quindi è l'unica possibilità che resta. Secondo lei arriveremo a fine luglio, sì o no? Facciamo una scommessa, ormai l'Italia sta diventando una soap opera, mi dica. Arriveremo il 25 luglio, è convocata l'assemblea di Alitalia che deve ricapitalizzare. E quindi a quella data i soldi ci devono essere, manca una settimana. Venerdì prossimo a quest'ora ci risentiamo e vediamo che in qualche modo, qualche strappo, hanno trovato la soluzione. No, la ringrazio, Daniele, non so cosa è successo prima, stiamo praticamente prenotando tutte le puntate dei prossimi giorni. Bene, così io devo lavorare meno. Grazie professore, grazie Gregory. Grazie, ci risentiamo la prossima settimana. 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. C'è chi dice che abbiamo pisciato fuori dal vaso confondendo i costi della sede del Ministero del Turismo a Monza, che è sbagliatissima, con i costi della Regione Sicilia. Io ho sempre criticato il nuovo palazzo della Regione Lombardia, che mi sembrava tutto inutile. Alle 18:09, ritorna Focus Economia, puntata oggi non consigliata a chi soffre di ulcere gastriche e gastriti varie. Poi le royalties le vogliamo dal Malox. Allora, vedo che alcuni scrivono: no, guardate che anche dell'Assemblea Regionale del Piemonte abbiamo parlato. Abbiamo raccontato anche di questa fantastica invenzione dei consiglieri regionali piemontesi della vecchia giunta, il teletrasporto, scontrini pagati a Torino e un minuto dopo a Roma. Per cui non è vero, però se parliamo con l'Assemblea Regionale Siciliana parliamo della Sicilia, non c'è nessuna prevenzione su nulla. Poi è anche giusto riconoscere che non tutte le regioni hanno gli stessi costi, che non tutte le regioni sono mosse con una certa lentezza, perché sennò lì si fa facile populismo e demagogia. Con i numeri e i dati alla mano, invece, no, è quello che fa arrabbiare poi. Allora, grazie alla regia che mi ha messo una base che prelude al weekend, ma manca ancora Giulio Sapelli. Però la borsa, prima di tutto, Piazza Affari oggi più 0,65% Milano, e più 0,44% Parigi, meno 0,35% Francoforte, più 0,17% Londra, più 0,60% l'America. Chiusura col botto per Salvatore Ferragamo, più 5,22%, bene anche a 2A, più 4, Banco Popolare più 3,80, World Duty Free più 2,20 come Saipem, Unicredit più 1,80, Fiat più 1,30, Enel Green Power più 1,1 come Telecom Italia e Iux. In calo invece Autogrill, meno 1,70, Unipolsai, meno 1,44, CNH, meno 1,20, Prismian, meno 1, Finmeccanica, meno 1, Atlantia, meno 0,90. Andrea Fontana, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera Sebastiano. Allora, Ferragamo, Fiat e poi invece andiamo su altri titoli. Beh, Ferragamo ha guadagnato oltre il 5%, c'è un'attenzione da parte di diverse case d'affari su questo titolo, un titolo che dall'inizio dell'anno ha perso il 20%, c'è un po' di recupero in generale nel settore lusso, in particolare su Ferragamo si vedono, nonostante un secondo trimestre probabilmente atteso in linea con il primo, quelli che sono un prezzo piuttosto buono di entrata per gli investitori, e qualcuno dice Ferragamo potrebbe essere anche un target di qualche grande gruppo, di qualche forte investitore, quindi questo ha spinto il titolo oggi. Per quanto riguarda Fiat, la rincorsa di Fiat ormai da 6 sedute consecutive al rialzo, non si è fermata neppure davanti alle smentite di Volkswagen e degli azionisti di Fiat su contatti e su trattative per un'integrazione o una vendita di alcuni asset del gruppo a Volkswagen. Si crede comunque. Ha guadagnato l'1,3%, chiaramente gli analisti ci ragionano, dicono è molto complesso, ma forse per alcuni asset, per alcuni marchi, forse qualcosa si può fare. Allora, Mediobanca, oggi più ballerina del solito, alla fine ha recuperato più 0,90% dopo un'apertura a ribasso. Sì, Mediobanca oggi è stata un po' volatile, certamente poi il recupero è anche figlio un po' di queste indicazioni che sono emerse ieri, non solo la nuova governance per il gruppo bancario, ma soprattutto la prospettiva di un ulteriore rafforzamento da parte del finanziere bretone Vincent Bolloré, che attualmente ha una partecipazione del 7%, potrebbe salire oltre all'8%, ma anche la prospettiva, come i giornali hanno ben sottolineato, di uno sblocco sulla vendita di alcune partecipazioni importanti in portafoglio che il gruppo aveva già in mente di dismettere. C'è la partecipazione in Telecom Italia, quella in RCS, quella in Pirelli, un 3% dei generali, insomma il mercato si aspetta che nella seconda parte dell'anno da qui vengano alcune notizie positive per Mediobanca. Ancora Telecom Italia, ieri un pesante calo dopo l'operazione, il bond, l'obbligazione di Telefonica, oggi? Oggi un piccolo rimbalzo relativo, non sufficiente a recuperare tutto, un più 1,1%, chiaramente la mossa di Telefonica è stata spiegata in diversi modi, ma soprattutto con la questione dell'antitrust brasiliano, quindi la volontà di ritornare alla situazione del settembre scorso, ma certamente pende sul capo di Telecom l'incertezza del riassetto azionario, per questo è un titolo che ultimamente vediamo molto oscillare in positivo e in negativo. Allora, migliori e peggiori in assoluto, PMS più 38%, ci sono notizie? Beh, c'è questo interesse da parte della società editoriale di Daniela Santanchè, cui è un paio di giorni che il titolo è particolarmente oggetto di acquisti in borsa, e quindi questo è il motivo che ha fatto essere il titolo migliore sia ieri che oggi, certo. Sia oggi. El Venture Group più 8,30, Okedos più 11,70, Expert System più 7, TBS Group più 5,30 e poi appunto Salvatore Ferragamo. Fronte opposto invece Screen Service meno 20%, Bastoggi meno 6, Vianini Industria meno 3,87%. In generale, Andrea, la reazione della borsa al dato della Banca d'Italia com'è stata? Perché leggevo cose un po' alternanti, diciamo, prima. Prego. Sì, no, certamente diciamo, Milano ha sicuramente reagito in maniera positiva, e poi diciamo poi nel corso del pomeriggio ha saputo un po' consolidare questo, questo, questo andamento, diciamo così. I bancari oggi hanno vissuto una giornata complessivamente positiva, nel pomeriggio qualcuno ha anche allungato, il Banco Popolare è quel, è sì, quel istituto che vediamo spesso far meglio con gli altri che vanno bene e essere più penalizzati in alcune fasi, va molto bene anche Unicredit e anche Biber, quindi anche i dati segnalati dalla Banca d'Italia sugli afflussi di capitali verso, sì, verso il nostro paese hanno positivamente, e sull'offerta di credito hanno diciamo dato una risposta, sì, positiva per il settore bancario. Grazie Andrea Fontana e buon fine settimana a te e ai colleghi di Radio Colli Sole 24 Ore. Chiedevo della reazione sul dato della Banca d'Italia, perché è l'ultimo tema di questa puntata, perché oggi la Banca d'Italia, come anticipavamo all'inizio del programma, è uscita con un bollettino in cui sostanzialmente certifica, diciamo così, quanto già anticipato dal Centro Studi Confindustria e da altri istituti, ossia una crescita molto più bassa delle attese del governo. Il governo mantiene lo 0,8% come crescita del PIL quest'anno. Banca d'Italia dice 0,2, e 0,2 inizia a essere un prefisso telefonico, anche 0,8, però 0,2 ancora di più, e ci avviciniamo allo 0 previsto dal REF. 0,2 lo prevede il Centro Studi Confindustria, con rischi di ribasso, e quindi adesso l'appuntamento con la crescita è rinviato un'altra volta. L'anno prossimo però dovremo crescere dell'1,3%. Io vorrei capire, un po' ce l'hanno spiegato, come sono cambiati anche il modo di analizzare gli indicatori di fiducia, lo ripeto, però vorrei capire dopo il traffico a questo punto che cosa sarà necessario. Il governo nega la manovra aggiuntiva, le previsioni sono comunque che chiuderemo con un 2,9% di deficit sul PIL, però insomma dallo 0,8 allo 0,2 a casa mia è un taglio di praticamente 6 a un quarto rispetto alla crescita attesa. Intendevo peso intellettuale, il peso dei libri che ha letto, ci mancherebbe. Professor Giulio Sapelli, buonasera. Pronto? Sì, terrestre. Sì, ecco, qui terrestre, perfetto. Senta, lei non ha sentito l'intervista al Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, meglio così per lei, perché però io con lei vorrei parlare di quello che insomma è accaduto in queste settimane. Prima il Centro Studi Confindustria, poi il REF, oggi la Banca d'Italia. Ci stanno dicendo che l'economia, se va bene, quest'anno italiana cresce dello 0,2% con rischi di ribasso, dice oggi la Banca d'Italia nel bollettino economico, però più 1,3% nel 2015, l'inflazione è lo 0,4, quindi siamo praticamente a inflazione 0, e 0,8 nel 2015. Le chiedo, prima domanda, secondo lei come mai anche quest'anno hanno cannato tutte le previsioni economiche? Il governo ancora tiene botta sullo 0,8, forse 1%, e poi invece vorrei capire se ci sarà bisogno di una manovra correttiva. Le do uno spunto, un suo collega economista ha detto, beh, perché gli indicatori che riceviamo non sono più gli indicatori di una volta, ossia per esempio il clima di fiducia che a fine 2013 era risalito sia sulle imprese che sui consumatori, noi una volta lo leggevamo come chi a quel punto pensa di guadagnare di più, spenderà di più, e quindi un miglioramento della sua situazione. Invece adesso dire che sei fiducioso sul futuro significa solo pensare che la tua situazione non peggiorerà, cioè che non verrai licenziato e che non ti verrà ridotto lo stipendio. E cambia molto se uno legge questi due dati. La convince la spiegazione? Insomma sì, penso che questo mio collega come mestiere faccia colui che guarda nelle sfere di cristallo, cioè legga le carte. Questo è un discorso che può fare un bambino, oppure questi economisti giovani di adesso, ma non un economista serio. Le previsioni non si fanno sulle cose dei climi di fiducia, cose di questo tipo, si fanno, come sa chiunque un tempo faceva economia 1, dell'università di una volta, dove si entrava in 100 e si usciva in 20, non adesso che si esce in 100, si entra in 100 e si esce 101, no? Perché non devi più bocciare nessuno. Le previsioni si fanno raggruppando dei dati statistici secondo variabili accumulate nel passato, che poi tu fai delle interferenze matematiche con qualche dato più recente. Quindi quello che chiamiamo previsioni, in verità, è una proiezione matematica su dati del passato. Quindi le proiezioni non si dovrebbero fare, vengono fatte per manipolare gli orientamenti di coloro che giocano in borsa, sono nati. Però dato che la gente deve illudersi, e anche gli economisti, da quando sento nella risposta di questo collega, che spero che sia un giovane collega di quelli che non dovrebbero fare gli economisti, se non siamo messi male, sono previsioni che non servono assolutamente, e soprattutto il clima di fiducia. Il problema è, amico mio, che dopo che abbiamo avuto circa 6 mesi, un anno di crollo della produzione industriale, di aumento solo degli indicatori per quanto riguarda l'esportazione di una minoranza eletta e formidabile di nostre imprese, ma che sono 20-25%, non tanto del totale, ma del valore aggiunto prodotto da tutto il sistema industriale, e come io dico da anni inascoltato, che la tendenza non è, come ripete anche, ahimè, il presidente della BCE, che non si ricorda più delle lezioni di caffè, quando uno ha un'inflazione dell'1,5-2 è già deflazione, che vuol dire crollo dei profitti industriali, perché quello è il problema, crollo dei profitti industriali, crollo dei salari, e quindi non si potrà che scendere. Poi mi si viene a dire che nel 2015 la crescita sarà dell'1,5, perché come? Facendo le manovre, lì c'è da sbellicarsi delle risa. Io rido perché io sono ormai qui, infatti qui non fa caldo, sono sulle mie alte vette e vi vedo voi poverini che vi accaldate laggiù. Ma scusi, voi, lei pensa che con manovre non anticicliche ma procicliche si possa creare la crescita? Fare un'altra manovra, cioè ammazzare di tasse, licenziare la gente, tagliare eccetera, lei creda che si cresca? Allora, amico, è questa economia che adesso legge il mondo a testa in giù. Quindi ci siete bevuti il cervello tutti, no. A cominciare dalla Banca Centrale Europea e naturalmente la Banca d'Italia, che da un po' di anni è una continua decadenza delle sue capacità. Allora, giro la sua valutazione al governatore Ignazio Visco, però oggi non vorrei aprire 28 fronti con il mondo istituzionale di questo paese, però una cosa... Poi si poteva avere quel rispetto istituzionale verso l'istituzione, naturalmente, cioè, si è sempre... No, mi dica una cosa però, Sapelli, a questo punto, secondo lei, visto che lei anche sostiene che il 2015 questa previsione dell'1,3% sia del tutto così un esercizio quasi spirituale, e invece quello che è certo è che quest'anno non andiamo oltre lo 0,2, se va bene, con un paese già in deflazione, ma a questo punto, secondo lei, il governo dovrebbe fare un'operazione di verità, cioè ad agosto, e dire quando è sceso sul PIL basta, adesso non confermiamo più le previsioni dello 0,8, e dovremmo rimodulare tutte le previsioni e magari, non dico ipotizzare una manovra correttiva, ma cos'è la manovra correttina? Ma scusa, Barisoni, vuoi svegliare dal sonno intellettuale classico in cui sei caduto anche tu? Va bene, oggi non è la mia giornata. Mi dica che la manovra correttiva che vogliono fare peggiorerà la situazione, perché se la manovra correttiva è aumentare di nuovo le tasse, licenziare la gente, spaventare il pubblico impiego, vuol dire che nessuno consumerà più e che ci sarà un futuro di disoccupazione. La manovra correttiva la gente l'ha capito, perché è più intelligente di voi, che sguazzate in questa retorica senza senso, che le manovre correttive sono bastonate. Vabbè, questo non c'è dubbio. Allora, non bisogna fare manovre, bisogna smettere di aumentare le tasse. Bisogna fare degli investimenti, se non ci sono quelli privati, pubblici, bisogna detassare, bisogna tagliare la burocrazia. Sì, però il suo collega Giavazzi dice che se anche facessimo investimenti infrastrutturali così non risolveremo il problema, cioè sì, abbassare le tasse sì, ma gli investimenti classici keynesiani non risolverebbero il problema. Gli investimenti classici keynesiani sono investimenti diretti a dare lavoro e a rimettere, ma tu pensa all'edilizia, tu pensa solo se si facesse bene finalmente questo piano per il rinnovo delle strutture scolastiche delle scuole, ma rimetti in piedi il laterizio, rimetti in piedi l'elettricista, l'idraulico, piccole cose, chiamale piccole cose in un sistema economico che si sta gelando. Capisci? Io qui da lassù, sai, io sono vicino al paradiso quasi, no? Sono in forma di purgatorio, vi vedo, siete quasi tutti pietrificati ormai. E venite ancora a dire alla gente che c'è bisogno della manovra correttiva, ma voi vi siete messi il cervello. No, io sono d'accordo che la manovra correttiva peggiorerebbe le cose, sarebbe fatta solo per rispettare i vincoli europei. Bisogna dire, tu che sei un giornalista, sei ascoltato, perché Renzi ascolta solo i giornalisti, quelli come lui, e chi ci ha buttato nel rottamatoio, dire, signor Matteo, aspetti un attimo, non corra sempre, ascolti un attimo, ti fermi un minuto. Tra Firenze, Roma e Bruxelles, dica al paese che non farà più manovre correttive, non aumenterà più le tasse, che la gente deve cominciare a spendere, dica che veramente darà di nuovo gli 80 euro, dica queste cose e non parli più di numeri 0,5, 0,6, sennò la gente se li gioca all'otto, ma non servono a niente. Sapelli, grazie, mi mancava appunto anche Renzi oggi nella giornata. Beato lei che sta lì al fresco, ci vede con... Torno a lui ormai, lei che è così autorevole, sì, mi manca. È più potente di un ministro, ma siete potentissimi, faccia questo. Va bene, mi manca solo aprire un fronte con Renzi, ma adesso provvederemo. Grazie a professor Giulio Sapelli, grazie per questa... queste bastonate ennesime che mi ha dato, ma le prendiamo sempre le apprezziamo da un grande vecchio come lui. Oh, buon fine settimana a tutti, buon fine settimana Sebastiano Barisoni, l'augurio comunque di passarlo bene, io di più, un venerdì così, spero, fa anche caldo, di non riviverlo più. Focus Economia comunque torna lunedì dalle 17 in poi, in bocca al lupo soprattutto tutti quelli che passeranno il fine settimana lavorando. Radio 24, la passione si sente.